L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vogliamo elemosine da 80 euro, vogliamo lavoro. Il non eletto, ovvero sia il boy scout di Licio Gelli, deve capire che in Italia c'è un grande nemico, ma quel nemico interno si chiama disoccupazione, si chiama corruzione, si chiama voto di scambio. Si chiama mafia, si chiama 'ndrangheta e si chiama camorra. Spara serpente della prima mela. Beh, era già il mio mito, era già il mio mito. È diventato oggi, non lo so, una sorta di... Non per le cose che dice, che ah, parte ecco. Sono un po' di cazzate le dice, Il diavolo. Però, perché la sinistra che attacca, la sinistra televisiva e non solo, che oggi attacca Piero Pelù, mi ricorda quelli che attaccavano i cantanti, i berlusconiani, che attaccavano i cantanti quando dal palco del primo maggio, dal palco dei concerti, sì, attaccavano Berlusconi. Su ricordi, questo no? Lei ha drammaticamente ragione, no, e mi preoccupo. No, su ma questo. Non devi preoccuparti. Quando le do ragione? Io ho quasi sempre ragione, però il punto fondamentale è questo. Piero Pelù, uno di sinistra fondamentalmente, di una certa beh, sinistra. Beh, di sinistra, il diavolo, sì, è uno, attaccato dalla sinistra, cioè, attaccato dalla sinistra. Ma sì, la caeta la strozzata. No, che no, si è permesso di mettere in dubbio il Vangelo che oggi impera, cioè il Vangelo renziano, per cui uno al di là di Licio Gelli deve essere, come dire, deve omaggiare, si deve inginocchiare di fronte a uno che ti regala 80 euro, ti deve dire grazie che mi hai dato 80 euro, perché altrimenti io non riesco a campare. Perché questo bisogna dire oggi. Se tu ti permetti di dire no, guardate, questi 80 euro secondo me non vanno bene, perché bisogna sì, fare. Ma non è che lui si è messo a fare TikTok il ragionamento, lui ha fatto la sua cosa, come sempre. Vabbè, però, quei rutti mostruosi che ogni tanto fa il signor diavolo. Beh, no, le volte. Capisco che per te un po' renziano non vada bene. Ma che mi frega, beh, direi. Ma che però senti quest'altra cosa di Pelù, che non è stata sottolineata molto: la questione dei cannoni. Lui polemizza con gli F-35. I cannoni delle canne? Sì, sì, cioè lui parla degli F-35 perché vorrebbe cancellare gli F-35. In realtà ah, non le canne, i cannoni quelli degli F-35. No, no, però dice anche i cannoni e le canne. Ah, sì, meno male. La nostra è una guerra interna. Il nemico è dentro di noi. Forse siamo noi stessi. Io, gli unici cannoni che ammetto sono quelli che dovrebbe fumarsi Giovannardi. Quel ragazzi, come dar torto qui però al sì, signor sì, Pelù ha ragione, eh. Ha ragione, soprattutto detto da te che fai uso abituale di usate superfacenti. No, abituale però... no, adesso sono mesi che non la faccio più, scusa. Ma vabbè, questo lo dici così, te lo dico veramente. Però la realtà è che purtroppo, in un altro momento Piero Pelù sarebbe stato osannato, diciamo la verità, per quello che ci sarebbe stato osannato. Oggi dalla Moretti alla nostra amica Picerno eccetera eccetera lo attaccano come se fosse una sorta di, capito, una sorta sì, di eretico. C'è dell'altro che abbiamo ripescato dal Pelù al concerto del primo maggio, cioè ieri. Diciamo che Pelù è l'unica notizia di questo primo maggio, no, del concerto, aspetta, l'unica, sì, perché sì, questo non è che... Marcellino torna da noi, dell'Utri. Sulle mani da Marcellino! Marcellino dell'Utri, torna in Italia, torna da noi, ti aspettiamo a braccio aperte, Marcellino! Ti prego, torna! Io invece lo sai come la penso. Marcello Dell'Utri resta in Libano. È assurdo che tu fai 7 anni da, come dire, dal suo punto di vista, eh? cioè uno che deve fare a quell'età 7 anni in galera. Ma sai che è un reato quello, cioè, che stai ma commettendo? Ma chi se ne frega? Ma ci sarà un magistrato all'ascolto, pronto a mandare subito, così. A chi, a me? E un avviso di garanzia qui al Brufani, meraviglioso, che arrivano qui due carabinieri dentro e ti consegnano un bel avviso di garanzia che è una bella indagine. Ah, già, è vero, perché cittadino siamo... sottoposto a indagine. Vediamo se poi vieni qui a fare Marcello, rimani là. Vedi, questa è istigazione a delinquere, ma proprio si chiama. Delinquere. Comunque non, ma abbiamo, detto, non abbiamo detto magistrati all'ascolto della radio. Hai citato il siamo Brufani. Al Brufani a Perugia. Festival del giornalismo, grazie. Buonasera. Grazie di essere con noi, applausi, grazie, anche se sono finti. Fra poco un grande gente ospite, questa è la Zanzara, tutti pagati questi vero, presenti qui per applaudire Casini e Berlusconi. Cioè, adesso diciamo la verità, Perù dice quello che diceva la sinistra fino a 2 secondi fa, Benzo, fino a un anno fa. Bella. Guarda, senti questa cosa qua, Casini e Berlusconi, il servizio sociale per anni, no, 2 giorni al mese. Ma scusa, che cosa avrebbe detto un esponente del PD o del quello che c'era prima del PD, che non mi ricordo più che cos'è? Perù. Guarda, Casini e Berlusconi, per quello che me ne frega di quello che fanno loro, potrebbero andare tranquillamente ai servizi sociali per anni. Tutte e due. Ma bene. Non 2 giorni al mese. Oh, adesso voglio farti sentire invece la reazione. No, la reazione che sembra veramente ma cambiati. La camustola facciamo ascoltare. No, ma c'è stiamo oggi è 2 maggio poi, tra l'altro. No, ma qua è solo Perù. Capisco che per te è sempre festa, cioè, sempre signora, festa del lavoratore, però. Picerno, a Perù dico meno reality, vabbè, tanto lo sanno da Milano cosa mandare, dai, Picerno. Quando la buona politica va veloce succede che anche il rock diventi lento. 80 euro al mese sono il primo passo verso l'equità e spiace che a non essere d'accordo sia un milionario. Ogni tanto bisognerebbe abbandonare i vestiti del rock e reindossare quelli di chi vive con 1000 euro al mese. A Perù diciamo meno reality show e più vita reale. Incredibile, era cioè, cantante, più vita reale, è la stessa cosa che diceva Berlusconi. Voi siete lontani, voi cantanti, no, lui non lo diceva mai, sono i berlusconiani, siete lontani dalla vita, bisogna vedere in realtà la vita reale, quello che vuole la gente, lo dice invece la Picerno. Capito come sono cambiati i tempi? Abbiamo già un ospite collegato, ricordami che devo dare del lei, però sì. C'è una cosa che voglio mandare in onda, perché è un grande scrittore. Bauro, grandissimo scrittore, Bauro su Grillo. Tra Bauro e Grillo non è mai corso buon sangue, diciamo, no? È un po' eretico. Adesso se la piglia pure con Santoro, tra l'altro, Grillo. Hai visto? Sì, No, Grillo con Santoro. L'ha messo tra i giornalisti. Nella lista nera c'è puzza di fascismo, Bauro. Del guru Grillo, siccome è un guru nuovo, diciamo, il livello di fanatismo è molto più elevato di quello che c'è nel PD. Io in questo movimento sento una gran puzza di fascismo. Lo dico e lo ribadisco. È con noi alla Zanzara dopo un sacco di tempo Aldo Busi, buonasera. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Come sta? Bene. Bene. Sempre che lei, Luciani, rispetti il patto. Sì. Applauso per il maestro Busi. Applauso per Busi. No. Sì. Aspetta. Lo dice a tuo cugino, guardi. Io no, sono ma detto io, maestro, non è. Ma mica hai detto ma sponso, ma maestro. Vorrei non è... ricordare il patto. Qual è il patto? Che devo dare del lei, devo dare del lei e non devo dire parolacce. Pacta servanda sunt. Com'è la storia? No, devo dare del lei e non devo dire parolacce. Citare il patto fra lei e me. Io rilascio questa intervista, ma per 2 anni lei non mi torcola più. Cioè non le scasso, vabbè, eccetera, eccetera, giusto? Non lo torco, cioè non lo torturo. In realtà io non lo torturo per niente. Sì. Lo chiamo 2 volte all'anno. Torcolare vuol dire perseguitare, anche insomma, perseguitare non in una maniera da mobbing o da stalking, però le ho detto tante volte che rilascia interviste molto molto malvolentieri. Perché non va più in televisione? Siete a Perugia, ci sono dei ragazzi. Sì. Sì. Che sono molto quindi... busiani, sono molto busiani questo ragazzo, è vero? Siete molto busiani. È vero, non le ho istruiti prima, cioè, sì, no. Assolutamente. Senta, ma su questa cosa di Busi, di Piero Pelù, che definisce Renzi un boy scout Gelliani. Di Licio Gelli, lei che ne pensa? Io penso intanto che ci sia la libertà di parola, poi mi fa molto piacere che comunque un cantante esprima un'opinione politica e quindi che si schieri non necessariamente contro o pro qualcuno, ma che si schieri Questo mi sembra molto, molto positivo, perché ecco, ma no, la sinistra che critica Piero Pelù per quelle parole, non le sembra un po' un assurdo? Cioè, che dicono, come fa un milionario a criticare gli 80 euro di Renzi? Ma questa faccenda del milionario, senta, se lui paga le sue tasse, se lui paga l'Empals, cioè poi che sia milionario o no, che importanza ha? Cioè, soltanto i poveri disgraziati con le tasche al verde devono esprimere delle cose. Allora, di questo passo daremo credibilità soltanto ai disoccupati e alcolizzati. Quindi ben vengano le parole, ma pensiamo, pensiamo soltanto alla forza eversiva che hanno avuto gruppi come i Rolling Stone, come il trombettista Miles Davis, come Julien Greco, che l'ha difeso con tutta se stessa, e c'erano questioni razzistiche, non soltanto razziali. Dunque, parlare di milionari, per impedire a qualcuno di fare polemiche è come dire un milionario, no, un milionario non può parlare, questo è un assurdo. Cioè, sarebbe come dire, quando si dice Celentano il milionario, Grillo il milionario, ma entriamo nel merito delle cose che dicono, poi che siano milionari, che non siano milionari. Io, per esempio, sono un contribuente fiscale totale, lei non è milionario? Per paura, ma per virtù, e mi vergogno molto di essere un contribuente fiscale totale, perché con le mie tasse vado a corroborare un sistema che io reputo ancora subculturale rispetto agli altri paesi europei. Cioè, si vergogna di parlare le tasse? Io che sono onestissimo, integro come cittadino, eccetera, mi sento, alla fine mi sento veramente una merda, cioè un collaborazionista di nemici. Vede l'assurdità, perché questa è un'onestà intellettuale, non è che io mi pei e mi senta particolarmente orgoglioso, faccio quello che dovrebbero fare tutti, cioè faccio il mio dovere di contribuente, e allo stesso tempo vedo poi la fine che fanno. Mi sento un cretino, bravo, ecco, mi sento proprio un cretino, mi sento gabbato, mi sento preso in giro, mi sento non considerato, mi sento alla fine inutile. Allora, torniamo in onda dopo il traffico con sicuramente le pacate considerazioni di Aldo Busi intorno ad una vicenda che ha fatto discutere in questi giorni, cioè dire il libro della signora Mazzucco in una scuola romana. Un libro molto bello, in cui c'è un passaggio in cui si descrive, diciamolo subito, un rapporto sessuale, chiamasi Pompino. Beh, vabbè, insomma, così si chiama. Lei è sempre molto allusivo nelle sue, però così si chiama. Allora vado subito alla questione diretta con Aldo Busi, che è in collegamento con noi dalla sua casa, immagino. Qui noi siamo invece a Perugia, al Festival del Giornalismo. Trasmettiamo dall'Hotel Brufani, che lei ricorderà sicuramente, luogo storico dove fu annunciata la marcia su Roma. Vabbè, questo Busi, è giusto che gli studenti 14enni, 15enni, credo che fossero 16enni, di una scuola romana leggano un libro dove si parla di amori gay, ma si parla anche di rapporti sessuali? In realtà basta che uno va su internet a 14-15 anni, forse anche meno, e ne vede di tutti i colori, forse fanno sesso anche a 13-14 anni. Beh, ragazzi, è giusto o no, secondo lei? Ma allora, senta, ma è giusto che nuovi libri di testo per le elementari e le medie voluti dai governi Monti e Letta per combattere l'omofobia siano stati ritirati dalle scuole, perché l'arcivescovo di Genova, che ignora la laicità dello Stato, ha detto che così si trasformano le aule, cito, in campi di rieducazione e indottrinamento che distruggono la famiglia. Questa è roba di un mese fa, poco più di un mese fa. Allora, questa cosa è stata immediatamente insabbiata. Prima di andare di mettere a fuoco questa questione del libro, diciamo una cosa, che il problema, l'anomalia, la malattia sta nell'omofobia, non nelle scelte sessuali dei cittadini, perché lo Stato, la legge, non deve assolutamente entrare nel periplo delle mutande dei suoi cittadini, fermo restando la tutela assoluta della intangibilità, della sacralità dei bambini. che io ho sempre distinto dai minori, perché è vero che i bambini sono minori, ma i minori non sono bambini. Allora attenzione, bisogna concentrare tutte le forze, le energie di uno Stato per tutelare la sacralità del bambino, almeno del bambino. Fino a 14 anni. Ma lei, ho capito, lei per, esempio, lei per esempio farebbe abbassare l'età, quella prevista dalla legge nel caso in cui si parla di abusi sessuali? È una legge infame, è una legge ingiusta che qualifica di pedofilo chi... Per la morale lo è, guardi che la morale è più importante della legge. Chi va con un sedicenne non è pedofilo. Chi va con un sedicenne? Questi criminali che si accompagnano a ragazze e a ragazzi di 14 o 15 o 16 anni e che magari sono costretti a prostituirsi. Io non li sto difendendo. Però se c'è consenso. Non li toccherei neanche con un dito. Però da un punto di vista del reato la legge va cambiata, soprattutto quella legge che prevede... Se c'è consenso, anni. Dice lei, se c'è un consenso, dopo i 14 anni va bene, dice lei. Non è che vada bene, è sempre orribile, è sempre schifosissimo il fatto che una persona adulta si accompagni a una persona giovane, perché è una forma di vampirismo. Però? Tuttavia, la morale vige sempre, e la morale è più importante, ripeto, della mera dal punto di vista penale a un certo punto anche cessare o non avere la stessa parità di condanna e anche di giudizio. Ho perché capito, abbasserebbe quella... mi lasci finire perché è importante, non mi interrompa, perché il bambino è sacro ed è vittima totale. Vabbè, l'adolescente no, spesso anzi è l'aguzzino istigato dai genitori, cioè, e che lo senso vediamo l'aguzzino? Da 30 anni è ora di finirla. Vabbè, di chiudere gli occhi, anche perché siamo di fronte a generazioni ammalate, non dimentichiamo. Ma in che senso è l'aguzzino? In che senso l'adolescente è l'aguzzino? Non ho capito, che lo che anche istigato dalle famiglie ad attirare in trappole sessuali l'adulto. Lo vediamo, le ragazzine dei Parioli, la mamma che gestisce la ragazzina, ma tante cose così. Beh, però comunque, la legge dal punto di vista penale, scusi, poi chiudiamo questo discorso, dal punto di vista penale la legge deve cambiare, sì o no? Cioè bisogna abbassare la soglia. Così come l'età del voto deve essere abbassata a 16 anni e anche l'età della patente, perché sono finiti, internet ha sconvolto il mondo. Senta, ma quella storia, descrizione del rapporto sessuale, la sessualità umana è un altro mondo, non si può continuare a pensare con la morale sessuale cattolica. Qui il problema è uno solo. Questa nazione deve rivoluzionarsi totalmente da un punto di vista culturale e civile. Senta, altrimenti Busi muore, questo è un bubone che continua a crescere. Senta, Busi, a lei fa schifo un paese dove Berlusconi, da condannato, fa campagna elettorale? Non lo so, perché è un po' come la santificazione dei due papi. Ogni paese ha la sua Disneyland e tiene i suoi comics, ma vabbè, l'Italia ha quelli, insomma, un po' teniamoceli, no? Da un momento all'altro, che fare per fomentare la distrazione di massa? Non è così scandalizzato lei di fronte al fatto che c'è la santificazione di due papi, va bene pure Berlusconi che fa campagna elettorale? Ma sì, certo, che ha capito, 7,5 milioni spesi. Insomma, però questa è l'Italietta, capito? È un paese morto questo. Sì, ma sul libro non ci ha detto alla fine. Sul libro della signora Mazzucco. Non c'è un'idea. Senta, Cruciani, e anche Parenzo, buonasera. Ciao, maestro. Sì, come no. Ma maestro. Proprio sembra quasi autoreferenziale. Dica, maestro. Non lo è, perché io ho già avuto una possibilità anni fa per andare a Strasburgo in quanto parlamentare europeo e ho rifiutato. Sarebbe stato un cinema pazzesco, Busi al Parlamento europeo. Io mi trasferivo direttamente a Bruxelles, lo dico subito, Busi. Ogni giorno casini pazzeschi, dichiarazioni. La considerazione che faccio è questa: possibile che tra tutti questi partiti, partitini, ma nessuno sia venuto in mente, ma perché non proviamo a chiedere ad Aldo Busi? No, però scusi, cioè, beh, io capisco che lei ha un ego, ah, come dire, sì, dice, la domanda è legittima. Io no, dico Aldo Busi, dice, come mai nessuno ha pensato a me? Beh, sì, giusto, questo no, sicuramente. Beh, sì, no, ma io è vero, con tanti stronzi candidati non c'è ombra di dubbio che Busi ci stava benissimo, ma questo non c'è ombra di dubbio. Con tanti stronzi. Cioè, stai dando dello stronzo. No, ho detto che con tutti gli stronzi che sono stati messi in lista, e non possiamo oggi fare l'elenco perché siamo in par condicio, un intellettuale come Aldo Busi forse in Europa ci sarebbe stato benissimo. Ma anche Battimo, per esempio, Battimo è andato al Parlamento Europeo. Intanto io parlo francese, inglese, tedesco e spagnolo. Posso leggere il vicinale, tenere speeches in queste lingue, certo non a livello dell'italiano. Però non l'hanno candidata, maestra. Un democratico convintissimo. Non sono mai stato condannato. Ma per chi voterà lei? Ho una penale immacolata. Non ha le carte in regola. Non ho alcuno scandalo nella mia vita. Ma per chi voterà l'europeo? Per chi voterà, Busi? Per chi voterà? Io penso che non andrò a votare, sapete? Grillo, secondo me per Grillo alla fine. No, ma io Grillo, non vado. Ma Grillo puzza di fascismo, come dice Vauro? C'è un po' di setta nel movimento di Grillo? Beh, io l'ho già detto in tempi non sospetti, credo un anno e mezzo fa, che qualcosa del Santone c'è. E io qualcosa il Santone è proprio... Io sono veramente... Cioè, bisogna ritornare, bisogna che qualcuno la smetta di dire che è cattolico ma è anche laico. E Bocciofilo no, magari è cattolico, laico, Bocciofilo è anche com'è vegano. Che si dice in francese, adesso le faccio una citazione colta, a voile et à vapeur, si dice, lei sa cosa significa, sì? No. Beh no, Busi, mi cade qui. A voile et à vapeur. A voile et à vapeur significa... Ma forse l'ha pronunciato male, Cruciani. No, l'ho pronunciato benissimo. Ai, Aldo Busi, l'è caduto sull'uccello, come diceva. No, a voile et à vapeur significa buongiorno. Uno che va con le donne e con gli uomini, cioè uno bisex, va a vela e a vapore. Ma io in questa cosa ne so più di lei. Quegli ambienti lì. Quale? Della vela? La devo abbandonare? Un francese argotizzato, dialettizzato lì dalle parti di Trastevere, che cosa ma vuole assolutamente dire? Non è così, la ringrazio, la saluto, abbracci, a presto Aldo Busi, anzi a tardissimo, lui dice. Sai chi mi ha telefonato poco fa? Sì, uno, non lo so, dopo per far polemica, il presidente dell'osservatorio minori, signor Marziale ha chiamato, signor Marziale. Ciao ragazzacci. Buah, che vuoi ti faccio il rutto così almeno. Guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, eh. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Marcellone, sempre lui dal Libano. Vogliamo fargli fare una sigletta dal Libano a Marcello Dell'Utri? Ci daranno il concorso esterno prima o poi adesso per questo. Allora, vedrai. Io voglio fare una a Dell'Utri Libano. Libano. Che dice? Ottima. Secondo me ha altro a cui pensare in questo momento. Sai che l'altro giorno mi ha chiamato un tizio, voglio raccontarlo qui alla gente presente al Festival del Giornalismo di Perugia, applauso finto, grazie. Allora, mi ha chiamato un tizio, non vi dico il nome, che mi ha detto: ma lo sai che Dell'Utri in realtà non è il Libano? E io ho le prove. Io ho detto: vabbè, sì, vieni, ne parliamo, eccetera. No, ti giuro, uno che si è presentato come un aspirante giornalista, dice, ha parlato col figlio di, parente di, eccetera, e secondo lui... perché mi ha detto, ma esistono foto di Dell'Utri? Effettivamente non esistono foto di Dell'Utri in carcere. Perché l'hanno arrestato in albergo? Però, sai, le foto mentre entra, qualche foto esce sempre, no? Mentre entra in galera, mentre viene portato. Ma i libanesi sono gente seria, però. Non ci credo a questa cosa qua. Però mi ha chiamato uno dicendomi così, secondo me Dell'Utri, anzi, non secondo me, ho una fonte autorevole che mi dice che Dell'Utri non è in realtà in Libano. Dove sarebbe? Ma non lo so, ma insomma, sicuramente è una puttana. In Italia sicuramente non è. Intanto è con noi Oliviero Toscani. Buonasera. Persona pacata, civile, bene. Allora, molto bene. Caro Toscani, subito la prima cosa è questa: l'appello di Micromega di oggi, Berlusconi in galera, così una cosa sobria. Sì. Micromega, d'altra parte, non ci potevamo aspettare niente di diverso. Il signore di Micromega, tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale. C'è un Berlusconi insieme a un maiale. Orwell, però. Forza Italia insorge, beh, quello è normale che Forza Italia insorge, ci mancherebbe altro. Ecco, io dico, questo è Orwell, tu che sei acculturato. Citazione orwelliana. No, questo purtroppo, Micromega dovrebbe solamente scrivere, non fare delle immagini, perché non è romano. mestiere. Ah, tu che sei un tecnico delle immagini, no, fanno schifo le immagini. Vabbè, però chi se ne frega, insomma, sì, no, no, ma, sei d'accordo con questa cosa di Micromega, caro Oliviero? Ma no, no, no, non sei d'accordo. Non sei diventato berlusconiano pure te. No, te. No, devo dire che mi sono qui su questo Golgota radiofonico, sì, in mezzo ai due ladroni, sì, e mi sento molto un Cristo. O da un altro punto di vista, in mezzo a due chiappe, uno cos'è? Eccomi, cos'è? Ecco, non so cos'è. No, alla Zanzara non si parla male. No, come non si mai parla, si parla, mai. Si parla, no, malissimo. Allora, insomma, le due chiappe qui. Dimmi. Piero Pelù, da noi qualche tempo fa, in realtà qualche mese fa, le cose che ha detto su Renzi non sono una novità. Poi, certo, l'ha pronunciata dal palco del primo maggio. Ha parlato di Boy Scout, ha parlato di Gelli, e dunque è successo un casino. E soprattutto ne ha parlato alla Rai, come se alla Rai non si potesse parlare male di Renzi, caro Oliviero. Però, da noi qualche tempo fa disse che cosa su Renzi? Sentiamo. Ascolta, io, come si dice a Firenze, preferisco aver paura che buscarne. E Renzi mi fa molta paura. Molta paura, molta paura. Come sindaco mi ha fatto... Queste ombre son la purtroppo, e sottolineo mille volte, purtroppo, come sindaco mi ha fatto cacare, ragazzi. Detto proprio in francese, E lo dico in francese. Due passano quei passi amari. Allora, qualcuno dice che in realtà Piero Pelù ce l'abbia con Renzi perché l'ha fatto fuori dall'organizzazione dell'estate fiorentina. Per me è una puttanata inaudita, non gliene frega niente a Piero Pelù di fare l'estate fiorentina, non credo che abbia problemi di soldi. La pensa così, è un personaggio un po' bislacco, certamente non è un autorevole commentatore, eccetera. E parlare adesso la sinistra che si ribella a Pelù dicendo la Rai una vergogna, il concertone, mi fa francamente schifo. Cioè, Pelù è un cantante, lasciatelo cantare, ha detto delle cose politicamente discutibili, ha parlato di Gelli, che francamente con Grillo, ma cioè, dai, con Renzi non c'entra niente, oppure nulla. Sì, caro Oliviero, non c'entra, no, nulla, ma che, no, niente, ma cioè, niente. Ha delirato il signor Piero Pelù? Ma è chiaro, ma cosa c'entra Gelli con... Vabbè, che cos'è, un coglione Pelù, allora? No, non è un coglione, ma doveva dire qualcosa. Doveva per forza far scandalo. Ah, doveva far scandalo, scalpore, è come il maiale lì di Micromega. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. All'alba blitz delle forze ucraine ad est, i ribelli abbattono due elicotteri, scontri anche a Odessa, Mosca è una catastrofe, l'Occidente intervenga. Il governo presenta modifiche al decreto lavoro, non più obbligo di assunzione ma multe a chi sfora il tetto dei contratti a termine. Polemica dopo il concertone del primo maggio. Pelù attacca Renzi, 80 euro sono un'elemosina. La replica del PD, un rocker milionario che non conosce il valore dei soldi. 8 anni di carcere all'ex tesoriere della Margherita Lusi, accusato di essersi appropriato di 25 milioni di euro destinati al partito. All'Italia, a ritmi serrati la trattativa con Etihad. Oggi confronto con i sindacati sugli esuberi e con le banche sui debiti. E lunedì del torchio ad Abu Dhabi. I veleni di Bussi in Abruzzo. Il TAR respinge il ricorso Montedison contro la bonifica. In 30 giorni l'azienda dovrà smaltire tonnellate di scorie tossiche. Regalare un libro a uno sconosciuto pagato da un cliente precedente, così come si fa con il caffè. Un'idea che parte da Salerno e arriva a Milano. Soprogio en be, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio en be, e che ce passo fa. Son libero de sceglie, ce l'ho sta facoltà. Oppure allora, l'ennesima sparata del professore avvocato Carlo Taormina qui alla Zanzara ha provocato un moto di ribellione, ti credo, su Twitter e sul web. Non fare tanto lo schizzinoso. Ma qui ha esagerato, dai. Vabbè, esagerato. Ha detto la porcheria. È Carlo Taormina. Ho capito, però. Ma è Carlo Taormina. Beh, cioè, lo dici, come dire. No! È Carlo Taormina, cioè non è che è il filosofo del pensiero. No, Taormina, questo sicuro. Mi fanno schifo i gay. Io sono a favore del matrimonio, a favore, ho un sacco di amici gay, matrimonio gay, adozione, però uno che gli fanno schifo i gay ha diritto di esistere, di poter, ma no, dire, ma ha detto delle senza porcherie, essere, ma senza, soprattutto senza finire in galera. Ha offeso milioni di persone. Guarda, se uno dice, questo è quello che penso io, i froci mi fanno schifo, per me è un personaggio. Ma ha offeso la sensibilità di milioni vabbè, di persone. E allora, no, vabbè, un corno. Anch'io vengo però, offeso, scusa, ogni giorno, eppure vabbè, non è che tu lo meriti. Tu te lo meriti. Oh, tu te lo meriti. Taormina, la campagna è un bacio a Taormina con la gente che si bacia, però noi non ci possiamo baciare qui perché tu mi fai anche un po' schifo, Parenzo di più. Io credo siamo due insieme, ci baciamo in tre, no, questa campagna però non mi piace contro Taormina, no. Vecchia, poi. Taormina vecchia, sì. Come si fa a scoprirlo prima? Ma che ne so, io penso di sì che si scopra, insomma, cioè che si che in qualche modo prima si potrebbe scoprire? Ma io penso che siccome sono delle anomalie, diciamo così, genetiche, anche fisiche, genetiche, quindi. Fisiche. E dunque lei fisiche. Ma guardi lei, ma chi è Parenzo che parla? E lei sì, ma come fai, Carlo, a dire anomalie fisiche? Scusami. Ma scusami. E quell'altro che non ti dice niente. È una cosa nazista, giunta. È una cosa nazista. Ma è Cruciani che non ti dice niente. Ma come anomalie fisiche? Guarda. Ma guarda, le migliaia di persone che ci ascoltano, che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche? Si debbono sentire che io ritengo che sono anormali. Che ritengo che sono anormali. Vabbè, poi ha detto altre cose. Il professore, per modo di dire, i gay sono malati, mi fanno vomitare, però non abbiamo chiesto ad Aldo Busi una cosa, caro Aldo, grazie di essere ancora qui. Volevo chiedere a Busi, il libro della Mazzucco, quel passaggio così esplicito su un atto sessuale, ti è piaciuto, lo hai letto, lo conosci oppure no? No, intanto io vorrei ritornare su queste dichiarazioni di questo del Taormina, perché non volevo, come dire, offenderti. Che cosa avrebbe suscitato come scalpore, come scandalo a livello nazionale, internazionale, se alla parola omosessuale avesse, che ne so, messo ebrei o palestinesi, o neri o gialli o bianchi o musulmani, cioè questa è una cosa che bisogna molto fare, grave. Metterlo in galera, che bisogna fare? Sì. Metterlo in galera? Se ci fosse una legge come c'è negli altri stati, cioè queste dichiarazioni, in effetti, non esiste pubblicità negativa. Queste dichiarazioni ti fanno capire quanto è l'urgenza di una legge anti-omofoba e contro il razzismo in generale, perché non si può disseminare l'odio. Vabbè, è antisociale. Io non sono d'accordo, Aldo, non sono d'accordo. Scusa, mi scusi, Busi, ma non sono d'accordo. Devi creare nemici artificiali per distrarre l'attenzione da te e dallo schifo che fai tu al mondo e forse a te stesso. Questa è una riflessione. È questo quello che si vuole. Cioè, e i ragazzi che si ammazzano, ce ne sono stati altri due, insomma, e quelli che vengono picchiati e non succede niente. Ma ci sono le leggi per punire queste persone? Ci sono non già le leggi per punire leggi, queste persone? Ci sono ma come leggi, no? Comunque ma non se uno picchia uno viene punito in ogni caso. Chiarissimamente. È la mentalità che va cambiata. Vabbè. Ora io voglio soltanto sottolineare il danno, perché io sono anche un uomo molto pratico, molto pragmatico, il danno turistico dopo una dichiarazione del genere. Turistico. È una cosa che va su tutti i siti internazionali, sarà tradotta anche in aramaico. E non è una cosa, no, badate bene, non è una cosa che va a toccare il turismo degli omosessuali, va a toccare anche il turismo delle loro famiglie, perché sono loro che sono state offese. Scusa, allora, e qual da questo è punto la di famiglia vista che non ha un omosessuale in casa? Ditemene allora, voi una. No, però aspettami, Aldo. È un'offesa al genere umano quella che viene fatta. È una cosa profondamente antiumana. Questa dichiarazione è orribile, non può passare così come acqua fresca. E che dobbiamo fare con Taormina? Che dobbiamo fare? Io farei una class action contro Taormina, proprio penale e civile, penale, contro la persona che fa una dichiarazione del genere. Perché però io vorrei tornare, Aldo, mi scusi Busi, vorrei tornare sulla frase che lei ha detto prima, che è quella: in ogni famiglia c'è un omosessuale. Perché adesso, per carità, va benissimo, cioè, però a me non risulta. Per esempio, qui abbiamo tre famiglie qua, no? Parenzo, in casa tua c'è un omosessuale? No, in casa mia pure non c'è un omosessuale, già siamo ma in due. Cosa Busi, come sapete voi della sessualità appunto umana? Che ne sai tu? A casa mia, però sai tu? Il mio babbo, però quello che mio fratello è nascosto. Con traumi, ricatti. Ma no, ma mio fratello è fidanzato con una donna, che ti devo dire? C'è i cugini, c'è tutto. Ma non... Vabbè, ho capito. Ma sulla Mazzucco, per chiudere, sulla Mazzucco, Busi. Ma della gravità della cosa? No, io sono d'accordo. O volete sempre metterla così? sul ridere non c'è tanto da ridere. Voi non mi avete fatto finire la frase prima, ma il 7% delle persone affette da HIV positivo hanno meno di 14 anni, e non sto parlando soltanto dei poveretti in Africa. Che vuol dire questo? Cosa vuol dire? Paesi. È che orribile vuol dire? Questo. In Italia nessuno fa più caso a questo. Occorre instaurare dei presidi medici nelle scuole. I ragazzi, perché i bambini, le bambine abbandonate dai genitori devono poter avere un punto di riferimento. Ah, per l'educazione sessuale, ho capito. Sanitario, va bene. Non solo psicologico. Però siamo andati un po' lunghi, Busi, per la questione della Mazzucco. Ti richiamerò, però adesso mi devi un altro quarto d'ora nei prossimi giorni sulla questione della Mazzucco, perché sennò... Ma io non l'ho letto il libro, non è che... ecco, bene. Però ma voglio invitare a leggere un bellissimo articolo uscito su Il Foglio il giorno 30. Benissimo, lo leggeremo. Grazie, ciao. Ed è firmato da, vi dico anche perché è scritto anche molto bene, da chi? Da Manuel Peruzzo, che io non so chi sia, ma ha fatto un articolo esemplare. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro. Oggi Marco Pannella festeggia i suoi 84 anni. Beh, che giornata memorabile però. Aspetta, noi gli abbiamo fatto un grande regalo, fra poco lo sentirete. Giacinto, ha detto Marco. Senti, sentilo, sentilo ai giornalisti. Senti. Tu stai qua perché sai che qui oggi c'è il mio compleanno e lo celebro qua, lo sa quasi tutta la gente normale. Allora, domanda giornalistica, come mai stamattina qua? Bimba mia, chiedi un po' come mai noi stiamo lottando per lo Stato di diritto. Com'è che fa? Stiamo lottando per lo Stato di diritto con Oliviero, con Toscani, tutti insieme. Oliviero e anche Toscani c'era Einaudi, Pannunzio e Giorgiana Masi e noi, radicali, liberali, liberisti, libertari, diciamo. No, ma perché ce l'hai così su? No, io anzi l'ho, io ho avuto radicale, figurati. Sì, giocavo anch'io, da piccolo con i ragazzini rom, sentite questa. Come? Poi comincia a delirare, Pannella. Comincia, continua. Io sono nato giù alla stazione, quando ero nato. E per esempio andavo a giocare, la mamma francese, eccetera, appena potevo, nel primo sottopassaggio della ferrovia, ti immagini, tenevamo la ferrovia. E il sottopassaggio con chi giocavo? Con i ragazzini rom. E ho campato, ho cresciuto con loro. Ah, ragazzi, è stupendo. Fate qualcosa, amici radicali. È stupendo. Cioè, è poesia, capisco, è un uomo. Capisco che senza di lui siete finiti, cioè è finito il movimento radicale e tutto. Però fate qualcosa, come diceva Giovanni Negri. Cioè, prendetelo, portatelo in un nosocomio, qualcosa. No, monumento. Tenetelo monumento. Lì, dai, su, non è possibile. Senti, salutatemi quelli del TG3. A un certo punto dice: senti. Salutatemi quelli di TG3, i compagni. Che ieri sono riusciti manco a farlo sapere che io forse arrivavo. Proprio, capito? Porre tradizioni comuniste, erano pure assassine, ma erano un po' più decenti di quelle di oggi. Ma adesso, perché i giornalisti del TG3 devono sapere che Pannella va a Teramo? Perché, poveracci? Perché a Teramo abbiamo fatto la battaglia di divorzio, aborto, obiezione di coscienza. È un monumento, è un uomo straordinario. Aspetta, il nostro regalo a Pannella si incazzerà tantissimo. Il nostro regalo personale, è proprio. Regalo personale. Genetliaco per Pannella. Per favore, caro Presidente della Repubblica, non prendertela con noi perché siamo fatti così. Però non potevamo resistere. E il nostro meraviglioso, bravissimo Andrea Radic, alias... Giorgio Napolitano, anzi forse si dice il contrario, però sì, è uguale, esatto, avete capito tutti, ha chiamato Pannella per fare gli auguri di compleanno. Lui, il vero Pannella. C'è cascata, cioè, allora precisiamo perché sennò qui andiamo nei guai. Sì. Il finto Napolitano. Sì, il finto Giorgio Napolitano. Scusi Presidente della Repubblica, chiediamo sì, umilmente perdono. Allora, il finto Giorgio Napolitano, interpretato magistralmente come già più volte ha fatto qui la Zanzara. Dal nostro amico Radic. Il nostro amico Radic, ex, non lo diciamo perché chi se ne frega, ha chiamato Marco Pannella per fargli gli auguri. Ne è uscita una telefonata un po' modificata, comunque questa. Il treno delle... Sì, innanzitutto un affettuoso saluto e auguri di buon compleanno. Sono Giorgio Marco. Oh, buon compleanno. Grazie. Giorgio, ti ringrazio tanto, tanto, affettuosissimi, tanto. Affettuosi auguri. Grazie. Come ti senti? Come ti senti fisicamente? No, vabbè, ma sai, quelle cose tu le sai almeno quanto me. Dipende da come si sente quello che accade e si riesce a fare. Mi hanno riferito i miei collaboratori questa tua passeggiata stamane a Teramo, dove hai incontrato tanti cittadini che ti sono vicini, e mi fa particolarmente piacere. Lo so, Giorgio, credo, visto che mi sono chiesto un po', ma poi nell'ambiente di Papa Bergoglio mi hanno ringraziato perché dicono che ho avuto l'umiltà di cercare di dargli di aiutarlo. Guarda, molto... una telefonata mi ha fatto molto piacere, molto piacere. Sì, ma capisci, loro hanno sottolineato che a me, lui è grato per l'umiltà, e non la modestia, per l'umiltà per la quale poi ho cercato di dargli l'aiuto. Ma questo ti ha sempre caratterizzato ed è stata sempre apprezzata da tanta gente, tanti giovani. Volevo... Tu sai che la nostra storia, la tua e la mia, a questo punto gli hai dato un gran contributo in questi ultimi due anni. Guarda, in questi ultimi due mesi mi sento un poco preoccupato della situazione, che continua a essere incerta. Certo, Giorgio, io sono arrivato in questo secondo da Teramo. Volevo dirti davvero, se ti venisse in mente, di non escludere la possibilità che vedendoci ci si possa in quel momento, forse in modo inaspettato, dare una mano di congiuntura seria, no, da parte tua, figurati, e anche da parte mia, chiamami subito. Devo dirti che ci rifletterò con grande serietà e attenzione, perché certo, il momento necessita. Io sono anche in dubbio se indirizzare un messaggio alle Camere ancora sull'amnistia e sull'indulto. Non so tu che ne pensi, ma... No, guarda, su questo quello che penso, sto riflettendo, proprio a livello anche di diritto con implicazione. Tu hai individuato due obblighi, no? Gli obblighi non hanno tempi, gli obblighi devono essere adempiuti. Tu li hai individuati, diciamo ex cattedra, li hai individuati, eccetera. E nell'esercizio delle tue funzioni, nel pieno esercizio delle tue funzioni di garante del diritto, della Costituzione, che credo su questo ho sempre tenuto a parlare, le altre istituzioni, in un modo o nell'altro, quasi tutte hanno, quasi in modo poco elegante, preferito dire cosa fatta capo A. No, questo è vero, ringrazio della lucida analisi, che davvero tengo presente. Ti ringrazio ancora, non escludo di fissare nei prossimi giorni, e ancora un affettuoso davvero augurio, e mantieniti con questa energia e questa grande capacità. Grazie Giorgio, ti supplico non scartare l'idea di convocarmi ad Horas. Lo tengo senz'altro presente. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a te, un abbraccione. Ciao. Un abbraccio. Adoras. Si è fatto invitare al Quirinale. Scusate, se fossi napoletano non avrei capito niente, tranne la convocazione ad Horas, cioè chiamami, uno potrebbe dire: senti, invitami domani, convocazione ad Horas. Sì, non è che napoletano è uno colto, però insomma, no? Vabbè, questo era il nostro, per carità, il nostro regalo a Pannella. C'è una telefonata. Non so se sarà Napolitano. Apprezzato così tanto. Sicuramente non sarà apprezzato. Regalino. Però adesso, primo ascoltatore, ragazzi, mi avete fatto arrivare alle 19.42 senza un ascoltatore. Io, a me manca questa roba qui. Claudio da Lucca, dai, uno moderato, uno tranquillo, uno che dice una cosa pacata, ragionevole. Vediamo, vediamo. Ragionevole. Claudio da Lucca, dai, Claudio. Sì, Claudio da Lucca sono io, sì. E vai, niente, dimmi, io dai. Mi facevo il discorso di prima sui gay. Io do ragione a Taormina. Taormina è una delle poche volte che mi proprio simpatico quando dice le cose, perché simpatico. Dice la verità. Ecco, ma che cosa ti piace in particolare delle esternazioni del professore? Per esempio, quando dice che i gay fanno vomitare. Del professore sono più che normali, perché più che normali, certo. Anzi, mi meraviglia proprio la cosa. Quando io sento parlare di queste persone, che io non c'ho niente fra le altre cose, no, figuriamoci, per carità, no. Se c'aveva qualcosa. Scusi, Claudio, no, cosa le è piaciuto però di più di Taormina? Io voglio dire questo: che qualche problemino queste persone ce l'hanno. Io non lo so, ripeto, se è cioè un che tipo di problemi di hanno i proci, no? A parte che io rispolvero qui la mia vecchia teoria, caro Claudio, per cui lei abita in un palazzo, abita in un condominio, che non è quella di Busi in ogni famiglia, io la allargo un po', Busi dice in ogni famiglia, io mi limito a dire in un palazzo. Lei abita in un condominio, un palazzo, ci sono degli altri appartamenti accanto ai suoi o no? Sì, diciamo sì, no, ma questo... allora, sicuramente c'è un frocio vicino a lei, cioè al 100%, cioè, sì, lei è sì. Circondato, lei è circondato, questo è Toscana, ma rispondi, ma io diretto, sono scusa. Circondato, però lei è circondato, cosa, si deve arrendere, è circondato. Sì, ho capito che io sia circondato, ma me ne sto rendendo conto che sono circondato, però queste persone forse avrebbero bisogno in qualche maniera di aiuto, ma no, aiuto. Guardi, è lei che ha bisogno di aiuto, amico mio, guardi, oh, è lei Parenzo, che ha bisogno guardi, di aiuto. Sì, signor Parenzo, lei proprio, io guardi, mi piace perché... Ti piace? E io mi preoccupo, se io le piaccio mi preoccupo dopo quello che ha detto. No, mi preoccupo. Vabbè, Claudio. Vabbè, torni in corsia, va, si prende la medicina. Cosimo così. Torino, Cosimo da Torino, cioè, gli piaci. Ma ti rendi conto? Non te ne hai visto. Sì, buonasera, mi sente? Dimmi. Sì, allora, volevo fare un intervento in merito agli omofobi che dice il signor Busi. Allora, secondo il mio punto di vista, uno può dire tranquillamente che è frocio, come dice lei, Cruciani, perché cioè io ho un carissimo amico mio gay, e quando litighiamo gli dico tu sei un frocio, ma lui non si offende, perché io so che li voglio bene e lui vuole bene me. Sì, ma questo non è che Taormina dice questo. Taormina dice un'altra cosa. Cioè, Taormina dice che hanno delle tare fisiche, mentali e genetiche. Cosimo! Taormina la può pensare come vuole e ha il diritto di pensarla così. E evidentemente Taormina che ha qualche tarlone nel suo cervello. Ma questo non vuol dire che bisogna fare una legge per delle cazzate così, devono finirla. No, questo però non è uno stupido. Devono finirla, i froci di pensare che la gente le vuole male. Nessuno no, ma vuole ragione, male. Allora, io non ho capito, ma perché deve esserci la libertà di insulto? Se no, mi insulta, ma non ha detto niente. No. Insulto. Se ci sono gli insulti, ci sono. Se uno si sente. Sì, un attimo solo, Cosimo. Se uno si sente diffamato, c'è una legge che si chiama diffamazione. Vai in tribunale e denunci uno per diffamazione. Se io ti dico frocio di merda in mezzo alla strada, non capisco, ma se uno si sente diffamato con le leggi attuali, vai in tribunale lo stesso. È una forma di discriminazione. Ma perché ci deve essere una norma particolare? Perché in tutti i paesi civili. Io sono contrarissima. Angela da Savona, dai, Angela. Salve, Cruciani. Io sono Angela da Savona e volevo rifarmi alla prima cosa che ha detto quando è iniziata la trasmissione, che come mai, che lo dico con poche parole perché non mi ricordo bene, come mai che una persona senta lo stesso una trasmissione anche se non le piace? E lei diceva giustamente, cioè quello che l'ha detto, lei lo riferiva, che perché vuol vedere cosa succede il giorno dopo, giusto? In poche parole gli ho detto... È una citazione di un film di Howard Stern che si chiama Private Parts. Sì, ma io non mi ricordavo. Vabbè, se non si ricorda più, che cazzo parla allora, signora. Infatti è vero, io che poi di natura sono molto curiosa per tutte le gli accadimenti, allora? Eccetera, no? E faccio così. Però stavolta, scusi, Cruciani, glielo devo dire, lei sarà un fissato, ma è un fissato col sesso, perché basta che vi parlano di sesso, lei ci si butta. Ma non commetto, fosse anche così, non è che... Se fosse anche così, signora Angela, non sono un criminale, no? Cioè, mettiamo che sia così, non è che sono un criminale. No, ma adesso a parte questo è una cosa mia che gliela volevo dire perché la penso. Ma dicevo, quel libro della Mazzucco, dico bene? Ecco, libro della Mazzucco, sì. Per 20 volte lei ho citato quel passo lì sui pompini, sì, sì, certo, ho citato quel passo lì. Mi piaceva citarlo. Ma non siamo qui, non è una lezione all'università, questa qua è una trasmissione radiofonica, non è un simposio. Bisogna fare un po' di cinema, di spettacolo, un minimo. Cioè, mi viene naturale poi. Cioè, ma lei che cosa pensa? Che siamo qui a col professor Zagrebeschi a fare una lezione sul diritto costituzionale? Non sarebbe male, però, Zagrebeschi. No, è vero. Sì, dici. Zagrebeschi. Qui. Grazie Angela, però volevo sentire Angelo dalla provincia di Perugia, cioè sì. Qua vicino. Sì, pronto? Dimmi, dai. Salve, no, io chiamo perché sentire le parole di Taormina e anche dell'ascoltatore di prima, Claudio, sì. Credo da Lucca, sono state per me sinonimo di malessere. Io sto male per quello che ho ascoltato e non posso accettare che vengano dette queste cose in una radio. Io sono abituato a tutto, e ascoltate da un pubblico. Io, guardi, ho parlato con la sua centralinista, volevo mantenere un attimo l'anonimato. Beh, adesso... Io posso parlare un attimo in maniera seria? Lei è gay? No, ma non è una domanda. Pronto? Sì. Io sono omosessuale, purtroppo non dichiarato perché vivo in una situazione di necessario anonimato. Io, cioè in che senso, scusi? Sono un seminarista. Pronto? Scusi, però adesso abbia pazienza. Se lei è però seminarista, che ci è andato a fare il seminario se ha queste funzioni? Vabbè, dove vuoi andare? Non c'entra niente la mia condizione, la mia tendenza sessuale con quello che poi faccio e soprattutto con Dio e con quello con la religione in cui credo. No, mi scusi. Io vado. Pronto? No, dove vai? Io vado. Dove vai? Qua è difficile. Perché? Dimmi. Che cosa vuoi dire a questo signore, Oliviero? No, dico, è andato nella tana del lupo lei, scusi. No, Toscana, prego, dai. Ma tutti anticlericali sono qua, no, pazzesco. No, io non sono, no, voglio chiarire. Se c'è una persona che non è anticlericale sono io, sono semplicemente laico. Sì. Laico. Però? Fino in fondo. Però? No, però, scusi, ho anche una certa esperienza, perché ho studiato dai preti, quindi... Sì. Per salvaguardare la mia integrità fisica ho dovuto lottare. Cioè in che senso? Sì. Che dici? Cioè ti volevano inchiappare? Se tu vai no, ma così ti abbraccio, come sei bello. Vabbè, ma è gente gentile. Sì, sì, molto, molto. Però cioè, devi stare attento alla tua integrità sessuale. In che senso? Ti volevano violentare, Oliviero? No, non violentare. Questa cosa è importante, interessante. No, ma chi ha studiato dai collegio dei preti? No, non c'era Giacuzzi, ma che cazzo? No, tentativi di abusi di ma molestie. No, tutto il tempo. Cioè, hai subito tentativi di molestie. Ho anche accusato, mi ricordo, durante la messa la mattina... in collegio un confessore che ti palpava, a un certo momento l'ho preso per mano, l'ho portato pure fuori dalla mensa e dico scusi questo qua palpa, ma è venuto fuori un casino. Cioè hai subito molestie da preti, da giovane, da ragazzino tu? Ma io vorrei sapere chi non le ha subite. Tanti Chiunque abbia studiato in un collegio ma non si può dire, dai. Vabbè, non si può dire, se lui lascialo dire. No, perché dai, lo sta dicendo. Qualcuno qui ha studiato nel collegio di preti, nessuno ha coraggio di dirlo. Vabbè, comunque, sì? Come è andata a finire? Si alzi, per favore. Ma conduco io la trasmissione. Ma lascialo stare. Tu hai studiato... È mica la televisione, è la radio, mica si vede in casa. Però io ti sto dicendo... Non avete il senso della... No, abbiamo il senso dello spettacolo. Però lo seminarista... Ma no, ma allora, ho cominciato con la mia esperienza personale. Poi ho fotografato... Hai subito atti di violenza o no? Questo, tentativi di violenza? No, di violenza, ma sono stato abbastanza veloce per non poterle... Ci hanno provato esplicitamente. Ma è logico, ma se vai alla scuola di pre... No, ho capito, va bene, d'accordo, però... andare, volevo andare. No, via. fermo lì. Allora, Angelo dalla provincia di Perugia, fermi tutti. Angelo dalla provincia di Perugia, siamo sempre qui in diretta da Brufani, dal Festival del giornalismo di Perugia. Applausi, grazie ragazzi, grazie. Grande diretta da qui. Speriamo che fuori si sente, per le persone che ci stanno ascoltando, molte di più fuori da questo studio. Allora, Angelo, allora, lei, se mi sta coglionando, le giuro, la rincorro fino qua fuori. Se mi sta coglionando fuori dall'albergo qui, come l'anno scorso, cioè io la ammazzo, no, questa Cruciani, volta, la ammazzo. Cruciani. Angelo, hai una cazzata, su, lei è una. Se vuole... se vuole io attacco giusto immediatamente, anche perché le risate alla fine non le ho capite e sinceramente non capisco neanche le provocazioni del signor Toscani. Io le racconto la mia situazione, racconto la mia esperienza. Sono stato accolto, nessuno in seminario si è mai permesso di mettermi le mani addosso. Solo due persone conoscono la mia condizione e nessuno ha mai fatto nulla per farmi sentire a disagio. Ma io non posso pensare che uno come il signor Toscani, che deve fare propaganda, si deve far sentire, deve farsi pubblicità, possa dire queste cose e aggiungersi a quello che dice anche Taormina. Sono cose vergognose. Angelo, scusi, se lei è omosessuale, piacciono gli uomini, uno potrebbe dire, ma se lei piace fare un po' di sesso, come è normale che sia, omosessuale o no, lei che cosa si è iscritto a fare al seminario? Scusi, il seminario lì bisogna adottare, no, per diventare... Ma perché poi... mi faccia capire, signor Cruciani, essere omosessuali impedisce a qualcuno di abbracciare la fede, di entrare in seminario e di voler diventare presbitero? Beh sì, un po' sì, se uno vuole diventare, no, perché uno omosessuale, beh, se uno vuole diventare prete, che deve fare? Cioè, per forza, non deve... lei non sa quanti ce ne sono, Cruciani. No, ma certo, quanti lo so. Sono in questa condizione. Però deve rimanere una cosa anormale. Uno si sposa con Dio, no? Si sposa con la religione cattolica, con la Chiesa. Chi ha parlato di sesso? Io non ho parlato di sesso, io ho parlato della mia condizione, ho parlato di come la vivo serenamente grazie all'aiuto che mi hanno dato i preti e i miei amici qui in seminario. Io ovviamente non vivo da solo. Vabbè, vivo con altre persone. Di questo, lei è seminarista omosessuale. Vabbè, adesso sgombriamo il campo da questa cosa qui. Perché ci ha chiamato, oltre per raccontarci che è seminarista omosessuale? Che cosa è rimasto ferito dalle parole di Vi ho chiamato perché intanto ho sentito Busi e soprattutto non capisco per quale motivo c'è bisogno di avere una legge per difendere me che sono omosessuale. Io non voglio una legge per essere difeso, non ho bisogno di una riserva oppure di qualcuno che mi dica cosa posso, cosa non posso fare riguardo alla mia sfera sessuale. E poi soprattutto non posso tollerare che una persona come Taormina, che ha avuto una visibilità immensa, che ha fatto tutto quello che ha fatto, continui a dire queste cose. Va bene, e soprattutto Angelo, non voglio più sentire grazie. Che lei però... Sì, non voglio più sentire che lei Che qualcuno dica quella parola con la F, non la voglio sentire più. Ma io la pronuncio perché ho avuto la dispensa papale dall'onorevole Concia e da tutte le massime autorità delle comunità omosessuali mondiali, italiane e planetarie. Per cui io continuerò a dirla e lei non mi rompe i coglioni. Grazie. Nome moleste moschino. La parola frocio, dicono che non la posso pronunciare, capito? Ti devo figa. Cioè i razzisti dell'anti... No, ti devo figa. Quella ormai non si pronuncia più. Questa è bandita, io giuro. È bandita dalla zanzara. Quella ormai. No, frocio infatti non è divertente. Allora, siamo qui con Oliviero Toscani, ma la Chiesa in realtà, caro Oliviero, che cos'è riguardo all'omosessualità? Che cos'è la Chiesa? No, l'omosessualità... Allora, pensa di essere un marziano, cioè un extraterrestre. Sì. Che atterri, diciamo, in Italia, entri in una bellissima chiesa cattolica, non sai niente di quello che è delle condizioni. Sì, dunque? Entri, vedi, uno attaccato, inchiodato a una croce, che sanguina. Poi, un altare, un altare con dei bambini nudi che volano. Sono gli angeli, tu dici, ma lui non lo sa, scusa, tu vieni da Marte. Allora? Neanche sa cos'è quello lì sulla croce. Sì. È quello lì, ma voglio dire, con i fratini che li abbracciano, poi vedi quell'altro sanguinante perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba simile. Ma scusa, io sono entrato. Sono rimasto con la bocca aperta. La chiesa è un club sadomaso, ma figurati, io mi metto Non è un club sadomaso, ma iconograficamente lo è. Per uno che non dal punto di vista, come dire, fotografico, fammi un'immagine. Ma sai quante milioni sadomaso di persone si sentono fantastico offese adesso, però, per quello che hai detto, dica, ci crede. Ma anch'io mi sento offeso. Ma da cosa? Da questa iconografia. Ah, dall'iconografia cattolica, cioè, perché ti senti offeso? Ma mi sento offeso perché e con questo vi sto parlando da laico. E cioè, questo si capisce. Aspetta, però pensaci bene. Rosa. E poi sai cosa mi stupisce, Cruciani? Che Roberto Napolitano, che persona così seria, non taccia, non le dica mai niente, io non lo so. Oh, ma dice ogni tanto, giustamente, dice direttore, dice. E come se dice? Allora, intanto mi è arrivato il messaggio del signor Marziale, che oggi non riusciremo forse a chiamare. Perché? Che è presidente dell'Osservatorio Diritti di... Lo chiamiamo, dici? Ma certo che lo chiamiamo. E dici, io sto aspettando. Aspetta, perché io sto al telefono. Ma perché cosa? Per Busi? Non lo so, è incazzato io con dici, Busi. Io sto aspettando. Sì, è incazzato Antonio con Busi, Marziale, presidente dell'Osservatorio Diritti del Minore. Presidente dell'associazione. Storico lobbista dici dei bambini. Lobbista dei bambini, già. No, lobbista dei bambini, mica trafficante di bambini. Ho detto quello che incarna la lobby che protegge i bambini. Diciamo così. Presidente Osservatorio Diritti del Minore. Però potrò dire, adesso poi non vorrà più rispondere al telefono come al solito, farò i soliti danni. Esatto. Cioè, sarò libero di dire che uno che da 20 anni fa la stessa. Cambiassero presidente almeno, no? Ma perché adesso questo figura si interviene? Adesso, vabbè, ma questo. Il Vaticano, oltre ad avere dipinto dal punto di vista. Ah, vuoi proprio tornare? Caro. A Radio Maria non ti inviteranno mai, secondo me, caro Toscari, dopo quello che hai detto. Dopo averla dipinto dal punto di vista fotografico, iconografico, come un club sadomaso. Sì, come un club sadomaso. Vilipendio della religione, comunque. Ecco, perché? Della religione. Cosa ti l'immagine del Vaticano per te, che cosa ti stimola? No, il Vaticano, che cos'è in realtà per te? Per Oliviero Toscani, il Vaticano. L'ultimo show che ho visto a Roma, sì. Neanche i più grandi rocchettari, fricchettoni avrebbero fatto una cosa così. Cioè dici il primo maggio? No, i due papi. I due papi che fanno santi altri due papi. È incredibile, tutto fatto in famiglia. Tu farai santo lui e tu farai santo Cruciani. Perché vi mettete d'accordo. Cioè una buffonata, vuoi dire? Cioè una farsa. No, no, non dico buffonata, dico che è incredibile, cioè incredibile. Poco serio. E poi tutti uomini, sì. Le suorine di fianco, le serve, sì. Le donne. Ma voi serve. Donne non vi incazzate, ma scusate, voi donne non vi arrabbiate di questo club di maschi e basta. Ma nessuno le obbliga. È anticostituzionale, ragazze, svegliatevi invece di fare le femministe. Ma se uno sceglie... Andate in chiesa a lamentarvi. Cioè le donne si dovrebbero arrabbiare. Non avete lo stesso parità di diritti con questi qua del Vaticano. Cioè che è un club solo di maschi. Ma è logico, è la più grande invenzione omosessuale che ho mai visto. Cioè, no, questo mi sembra un po' la più grande, no, senza pensare al sesso. Cioè la più grande organizzazione omosessuale. Omopotenziale, sessuale, non c'entra niente. No, ma che c'entra omosessuale? Tu hai detto che è la più grande organizzazione omosessuale, diciamo la verità. Vabbè, se lo vuoi far dire, non l'ho detto. Ma l'hai detto prima. Sì, l'ho detto, ma non intendevo col no, lasciamo perdere il sesso. Come tu vuoi fare l'assessore con Sgarbi? Non è che farai sesso con Sgarbi perché fai assessore con Sgarbi. Ma che è sta storia? Ah, sì, perché Sgarbi mi ha proposto assessore. Ti rendi conto? No, ma capisci? Allora, aspetta. È la più grande organizzazione maschilista, omosessuale. Omo, per favore, però, ma si, non fa male a nessuno, però si vestono da donne e ragazzi, non è con le sottane, è con tutto, ma fantastico. È l'abito talare. Sì, è vero, sarà talare. Sarà talare, ma le donne si vestono così. È millenaria la storia della Chiesa, non è che puoi venire qui in due ma minuti. Ma millenaria anche l'omosessualità, ma che non per le scatole. Senti, ma tu sei ancora pannelliano? No, adesso va d'accordo con Bergoglio, molto d'accordo con Bergoglio. No, io sono radicale. Vabbè. Credo molto più radicale, molto più radicale di ma Pannella, che adesso che darà la tessera di radicale al Papa, quindi perderà tantissimi soci. Perderà tantissimi soci, che non sono soci, ma comunque. Senti, Bergoglio per te che cos'è? Un clown o un grande uomo? No, Bergoglio parla come mio nonno 60 anni fa. Dice delle cose così banali che diceva mio nonno anarchico. Sì. Diceva queste cose qui e nessuno l'ascoltava, diceva un vecchio rimbambito. Adesso le dice Bergoglio e siccome è Papa tutti... È un genio. Un genio. Genio. Beh, vabbè, però, ma dice delle cose così... Così normali, così direi, scusate, ma forse banali. Questo è rivoluzionario, no? Rispetto... No, che lo dica il Papa. Ma allora, in tutti questi anni qua, che cazzo ci hanno detto sti papi? No, ci hanno detto delle cose inutili. Sì, scusa, questa, l'impressione è questa. Il sì. Papa Wojtyła, Santo Wojtyła. Io mi ricordo di un giornale che si chiamava Color. Puntata, guarda, io lo so, è pericoloso. Fece una battaglia. Fece una battaglia. Contro il Papa, che adesso è santo. E la radio questa, santo, perché lui era contro il preservativo in Africa. Sì. Vi rendete conto con l'AIDS in quel periodo? No, ma su questo hai ragione. Ha fatto dei disastri. Un assassino. Ma dico. No. Cioè, Wojtyla è l'assassino. Ma non si può dire. Non pensavo a Wojtyla. Ma dico uno che dice. In un posto dove c'è l'AIDS, era. Ancora adesso, purtroppo, sì. Non è più di moda. Non usare il preservativo è un assassino. Ma siamo ancora in onda. Sì, no, io chiedo e verifico. Però... Cos'altro possiamo dire? No, ma io te l'avevo detto, diciamo, non invitatemi! Ma allora diciamo qualcosa anche sulla Confindustria, che ne so, a questo punto. Dai, sei qua? Parliamo di Confindustria. Diciamo qualcosa, su, ma chiudiamo definitivamente in bellezza. Va no, avanti. Dammi un po' d'acqua. Ma rimani con noi. Tu non puoi parlare, perché proprio i cattolici. Ma io sono ebreo, sentire queste cose. Rinnegato, un ebreo. Ma mi dispiace sentire queste cose, è una religione millenaria. Proprio mai tu, lo penserei proprio tu ebreo cose. Domandati che religione avevano quelli dell'olocausto. Certo. Che religione avevano quelli dall'altra parte? Quelli dall'altra parte cattolici, sì, cattolici. Gli hai dato pure nei nazisti ai cosi. Cioè, ti rendi conto che per la prima volta in radio funzionano anche i silenzi? Cioè, il silenzio fantastico agghiaccia e diventa. Allora, senti, tutti ammutoliti. Ora arriverà un fulmine dall'alto. È tutta la vita. Arrivano messaggi. È tutta la vita che dico questo. Sono stato sanissimo tutta la vita. Ho 72 anni, sono sano come un pesce e non rompetemi le palle su quello che penso. Anche i coglioni, devo dire. Però si può dire anche i coglioni. Però un'ultima cosa. Ma perché un'ultima cosa? Il New York Times. Ti ricordi il manifesto? Ma mi fate condurre questa trasmissione? No, tu non conduci. Ti ricordi quel manifesto Amen del film di Costa Gavras? Era stupendo. C'era una croce cattolica. Fatta come svastica, certo. Insomma, come mai Pio XII non l'ha fatto santo? C'è un problema basta, finito. No, però... Amen. È finito. È tutto. Alleluia. No, però voglio dirti una cosa. Ma secondo te... Sì. Chi crede è un po' coglione, chi crede nella religione cattolica? No, cioè, no, assolutamente. Così, per aggiungere una cosetta. Perché siccome non si è detto ancora abbastanza. Ve l'ho detto che sono fra i due ladroni o no? Fermo, Domenico da Salerno. Ragazzi, fatemi un po' ricondurre le cose. Dai, buonasera, Oliviero Toscani, tutta la vita. Lo sto adorando in questo momento. Sì. Chi è? Sempre il seminarista? No, peccato, credo di aver convinto qualcuno. No. Domenico. Allora. No, volevo riferirmi al seminarista che ha parlato prima e gli mando i saluti di Giordano Bruno, il clan del quale fa parte, lo conosce. Giordano Bruno, non Giordano Bruno Guerri, Giordano Bruno, quel Giordano Bruno. Vabbè, allora... No, quello di un po' di tempo fa, il Nolano, per intenderci, che quell'allegro club di satanisti ha bruciato vivo. Sì. Quindi anche questo non c'è mancava, nulla da ridere, diciamo, no, fatto serio. Trasmissione sempre dai toni pacati e ragionati, diciamo. No, sì. Ma io sono un ragazzo buono, mi ritrovo qui a fare club di satanisti. Ogni tanto, ma Napoletano l'altro giorno mi ha detto: senti, però anche queste cose sulla religione cattolica si potrebbe anche evitarle, abbassare i toni sulla religione. Ho detto: sì, ci proviamo. Tac, una stilettata. Domenico, allora, però al di là della questione Toscani, che adesso si aprirà una questione Toscani. Beh, sicuro. Domenico, cosa ci voleva dire lei? Perché ci ha chiamato? Sì, ok, io ho chiamato perché quando sento le risposte degli esponenti del PD, tipo contro Pelù o contro questo, contro quello che li critica, no? Sì. Mi sembra che i testi gli riscriva Gasparri. Cioè, Pelù non può parlare perché è milionario, quell'altro non può parlare perché vuol farsi pubblicità. Mi sa che i testi glieli scrive Gasparri. Domenico, le devo dare ragione, perché effettivamente la polemica che è stata scatenata sulle frasi di Piero Pelù sembra paro paro quello che accadeva quando regnava Berlusconi anche sulla Rai, eccetera eccetera, e i cantanti si esprimevano contro Berlusconi e c'erano i berlusconiani che invece dicevano no, una vergogna la Rai, eccetera eccetera, le solite puttanate. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Franco? Non c'è più Ilaria da Lucca. Pronto? Ilaria? Sì. Sì, buonasera. Buonasera. La sento male però. Io avevo telefonato perché vi ascolto insomma molto spesso sì. Mi stava sullo stomaco l'avvocato Taormina che parla sempre male di questi gay. E allora io ne conosco abbastanza, sia uomini che donne, e volevo appunto portare la mia esperienza dicendo che sono... Che esperienza? Vuoi esperienza lesbica? No, beh, non necessariamente. No, io ho dei figli. No, vabbè, ma sembra un crimine chiedere a uno se ha avuto un'esperienza lesbica. È subito così, beh, un'esperienza. Sai che mi è andata un'idea, però? Voglio portare due lesbiche in studio. Beh, vabbè, ma non è che... Due lesbiche che fanno... Perché hanno la coda, che ci... No, due lesbiche che ci raccontano le loro esperienze, come vivono questo amore. Parli sempre di uomini, tu. Sì, no, ma infatti è questo. Vabbè, Ilaria, allora... Perché sono dolci, sensibili, intelligenti. Vabbè, e poi quelle persone dolci, io ne conosco di carogne tremende, cioè, gay che sono delle carogne nella vita, ma questa è veramente una stronzata che si dice sempre. E volevo dire anche che quelle persone che ne parlano male sicuramente hanno dei problemi, perché poi in fondo l'amore non ha sesso. Con questa massima Andrei l'amore pubblicità. Non ha senso per i baci Perugina pubblicità. Io l'ho dato Gesù Cristo sempre. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto, capito? Chi va contro le leggi di Dio, caro Toscani, va dritto dritto all'inferno. Che vuoi ti dica? Così dice padre Amos. Nessuno Amos è mai tornato dicendo che è brutto, e nessuno è mai tornato al paradiso dicendo che è bello. Cioè, non esiste, secondo te, non ci credi in queste cose? Non si sa. Padre Amort era la voce era di padre Amort, però abbiamo con andare noi là, per andare a trovare padre Amort proprio non ho voluto. L'esorcismo non ti va di essere, no, non hai qualche diavolo in ovvia, diavoli. Allora vi faccio una domanda. Aia. C'è un muro bianco, due porte. Sì. Due porte. E la radio sempre questa qua. La radio. C'è un muro bianco, tutti immaginano a casa. Finalmente immaginano a casa. Vabbè, dunque no, finalmente invece sempre. Invece sta televisione di merda, perché se ne fai vedere due porte alla televisione, le porte sono quelle lì. Esatto. In questo momento ci sono tante porte come quanti hanno ascoltato. Esatto. La frase, mica male. Per bellissimo, bellissimo. Due porte. Sì. E grandi uguali, abbastanza grandi. Tutto a posto fin qua. Hai la possibilità di scegliere. Sì. Da una esce il Padre Eterno, dall'altra esce il diavolo. Chi vuoi vedere? Beh, il diavolo, non c'è dubbio, il diavolo. Che strano, per curiosità, perché? Per curiosità. Perché? Ma per curiosità. Ma infatti così è interessato anche la Chiesa magari... Cattolica è interessato a sta piccola invenzione. Cioè si è inventata il diavolo. Beh, logico, è molto più attraente, molto però più questo sexy, è vero. Sai che questo è vero, molto però più intrigante. Ma no, ma in molto verità, più ma, colorato. Ma il maligno esiste dentro ognuno di noi, scusa, in verità. Scusami, è quella parte maligno, è quella parte cattiva che Cruciani ce l'ha molto più sviluppata di qualsiasi altro essere umano. Beh, tu sei bravo. Ma, vabbè, ma dentro ognuno di noi c'è una parte di male. Bellissima questa cosa di Oliviero Toscani, però è con noi Antonio Marziale, eccolo, Osservatorio dei diritti Presidente del minore. Buonasera, buonasera dottor buonasera, Marziale. Buonasera, ben trovati. Ecco. Allora, che cosa è che l'ha fatta scandalizzata? Che cosa è che l'ha fatta scattare? No, che non sono scandalizzato, sono semplicemente incazzato. Perché è ora di finirla con questi intellettualismi di maniera, mi riferisco ad Aldo Busi, che nel suo intervento ha parlato di differenza tra infanzia e minori, perché gli infanti non sono minori e i minori non sono infanti. Vorrei dire che questo è un intellettualismo di bassissimo profilo che confonde le acque, perché noi parliamo di soggetti in età evolutiva, convenzionalmente riconosciuti tali fino a 18 anni, Marziale, e non da sofismi di sorta, sì, ma dalla scienza. Al di là di quello che sono le sue considerazioni, che hanno a che fare con la legge, 18 anni, i minori... No, hanno a che fare, mi perdoni Cruciani, non solo con la legge, no, ma anche cos'è con che la le ha dato fastidio dell'infanzia. Che cos'è che le ha dato fastidio dell'intervento di Busi, però? Me lo dica brevemente, altrimenti... Mi ha dato fastidio il fatto che quello è un modo culturale per tentare di abbassare sempre di più ulteriormente quello che è l'età del consenso, non solo sessuale, ma lui ha parlato anche di permesso della patente, ci sono parlamentari che hanno fatto anche proposte di legge per abbassare a 16 anni l'età del consenso, cioè, per il porto d'armi, cioè stiamo rubando lei... l'infanzia. Vabbè, ma lascia perdere l'infanzia, non me ne frega niente. No, voglio... lascio perdere? Voglio parlare di Busi, cioè secondo lei parla così perché è uno perverso, è uno che in realtà vuole abbassare questo limite per qualche motivo, non lo so, perché ma secondo lei parla? Io non lo conosco per definirlo perverso, io dico che parla sempre a sproposito di queste cose qui, disconoscendo la materia, perché l'ha dimostrato, perché noi quando parliamo di infanti e minori ci rivolgiamo a soggetti in età evolutiva, c'è una pericolosa tendenza in Europa e nel nostro paese a rubare anni preziosi all'infanzia. Però qui non è la cosa, Marziale, non è la convenzione, non è il, come dire, il congresso dei diritti, no, dell'osservatore dei diritti del minore. Però Cruciani, lei, come passano le sue idee pericolosissime, devono passare anche le mie, perché vede, si fa presto a normalizzare presso Busi, l'opinione pubblica che a 12-13 anni è quasi normale che vadano a fare le squillo e piano piano diventa una stupefazione culturale. Ma non ha detto questo Busi, ma non ha detto questo Busi. No, guardi, lui ha parlato di abbassamento della soglia, tra le altre cose ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, ha detto internet ha stravolto tutto e adesso i ragazzi sono più grandi, ha stravolto tutto. Vabbè. Ma questa è una bagianata. Lo denunci allora, se ha detto delle ma cose lo denunci. Denuncio, perché questo è un suo libero pensiero, non ci sono estremi di denuncia. E lei lo ha contestato, benissimo. È una deriva culturale che è inaccettabile, così la come ha voce lui abbiamo voce anche noi per rivendicarla e ringrazio Parenzo e lei per questo spazio. Va bene, perché grazie, questa è una tendenza pericolosissima. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Il Vaticano è la più grande organizzazione club il più grande club maschilista e omosessuale del mondo. Omosessuale? Eh sì, è così. Cioè era... tutti uomini, nel senso tutti uomini. Sì, insomma, no. Tutti no, del tutti sesso, uomini... ma tutti di sesso maschile. Vabbè, che però vabbè, poi spesso sono, no? Vabbè, spesso sono Peppe Reggio Calabria, vabbè, Giuseppe da Reggio Calabria. Perché non si era capito, dici, a sufficienza, no? Fino adesso, Giuseppe Reggio Calabria, lui non ha capito. Ciao Grugiani. Dimmi. Sono Triolo delle pompe funebri. Chi è? Come mamma sta? Mia, amico Toccati mio, le palle. Ma che roba è? Chiamo tutti con le palle in mano. Ma questo fosse tutti con le palle in mano. Non ho volevo capito. Salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo che gli ho messo da parte qualcosa. Se anche non mi saluta non mi offendo, caro amico piccolo delle pompe funebri. E in più volevo proporre al dottore Toscani una pubblicità, magari una bella canzone. Non sono dottore. Dottore, perché lei è una personalità insomma al mondo, non in Italia solo, quindi voleva si parla di froci, di gay, però ci si dimentica che in studio c'è, con tutto il rispetto per Cruciani e Parenzo, c'è Oliviero Toscani, che non è una cosa allora, da poco, no? Dunque, lei è... Quindi ho chiamato per dire complimenti a Toscani insomma per i suoi ragionamenti, perché li condivido in pieno, sia quelli di Pannella che quelli di... quelli invece che ha fatto l'avvocato Taormina li condivido a metà, perché insomma metà, vomitare perché qualcuno sessualmente insomma è deviato, insomma, che te ne frega, non li guardare così non ci vomiti, no? Poi alla fine infatti non li guarda proprio, se li guarda la vomita, per cui come lui. Vabbè, allora Giuseppe, però al di là di queste sue, come dire, preziose, di questo suo prezioso contributo in cui dice a metà sono d'accordo, a metà con Taormina o a metà con Toscana, non vomitare, no, quindi... Dunque poi niente. Basta, Alessandro da Milano. Alessandro da Milano. Alessandro. Parenzo, Cruciani, ciao. Siete ciao, migliori, ciao Alessandro, dimmi. Uno. Ciao. Vai, cara. Vai. Volevo parlare di squirting, che non ne parlate mai. Porca miseria, parlate sempre di culatoni. Beh, effettivamente è una mancanza, Cos'è questo? Effettivamente. Parenzo, parlane te che sei un esperto. Guarda, cioè non sai cos'è guarda, lo squirting. Guarda, mi pare aspetta, che qui siamo però a un livello importante. Scusami, siamo arrivati... Sai che anch'io fino a un... non lo so proprio nel dettaglio, ma non mi metterei a spiegarlo. Cioè però. Tu non sai francamente, cos'è... visto quello che è stato detto fino a oggi. Fino ad ora non mi metterei anche in questo argomento. Tu non sai cos'è lo squirting? No, non lo so. Ma è una cosa clamorosa questa cosa qua. Oliviero Toscani non sa cos'è lo squirting. Alessandro, spiegalo. Che facciamo? Pronto? Alessandro, allora? Ma io eviterei alle 20:21, però... Quello era l'argomento. Io volevo anche le quote squirting, se si potesse... Per tutelare sì, anche però, le donne adesso, lei capisce, noi ci siamo abbiamo su Google, spostato lo cerca, l'asticella diciamo, sempre no? più in alto, però se io adesso mi metto a spiegare Urbi e Torbi io non lo farei, essendo io come dire particolarmente appassionato di questa materia secondo Parenzo, che cos'è esattamente lo squirting, credo che qualche cosa rischio, forse io penso qualcosa. Di sì, che dici tu, rischio? Il suggerimento che do è quello di googolare la parola, esatto, fate così, per chi non lo sapesse, pochi tra cui Toscani che veramente. Secondo me oggi abbiamo già detto molto, ecco, questo solo per come sei, va bene. Parco. Grazie, Parco. Grazie per lo squirting, grazie. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti. Padania, bella e libera. guarda avanti. Servi di Roma quando fuori. Vedi un rom senza dubbi in giro per la tua città, inizia ad inseguirlo. Sicuramente ti ha rubato. Che guardi queste foto? Scusa, non ho fatto. Guarda oltre i monti, non permetterò al tiranno di accecarti. Squirting! Tanto per Squirting! Sono bloccato l'iPad adesso! Sei tu, mi fai vedere le porcherie! Maiale, guarda! Sono bloccato l'iPad! Metti la padania! Metti la padania! Che loro non hanno Squirting! Figlia che porco! La libertà! Brunetta! Allora, siccome vogliamo rimanere calmi questa sera, vogliamo parole moderate. Vogliamo alzare il livello. No, questo che c'entra? No, questo. Che abbiamo livello? Con noi Mario Borghezio, buonasera. No. Buonasera. Bruxelles è ladrona, Roma non perdona. Ecco qua. Beh, hai dovuto, no, scusa, caro... da Squirti a Borghezio non è che c'è tanta differenza. No, scusa, però, adesso. Mario, hai dovuto cambiare slogan essendo candidato nel centro Italia. Centro, cioè, essendo tu candidato nel centro Lazio, Italia adesso. Toscana, Umbria e Marche, è di lì che parte la rivolta contro il centralismo, per la liberazione dei popoli, per liberare Roma, per liberare Roma. Ma da chi, scusa, da chi la vuoi liberare? Da Roma, da clandestini. È uno schifo, è da tutte certo, le parti, una città intossata, da tutta la schifezza che arriva da varie parti del mondo, una città che va difesa. Beh, Roma città chiusa! Chiusa ai clandestini! Altro che Roma città aperta! Ci mette è ora un po' di fare razzismo, un programma adesso. Chiaro, Roma città chiusa a tutta la feccia che la invade! Roma città chiusa! È ora di dirlo! Città chiusa lo schifo! Ma quale schifo? Però scusami Mario, allora facciamo così, scusami. Siccome tu sei candidato nel centro Italia, sì, tra cui Roma, sì, il tuo slogan, oltre a quello che abbiamo sentito prima, Roma, cioè Roma ladrona, anzi Bruxelles ladrona, no, Roma non può... Bruxelles ladrona! Vabbè, oltre a questo, tu se dovessi venire eletto, grazie anche al contributo dei romani, che cosa proponi come patto ai tuoi vecchi nemici romani? Cosa proponi? Ormai, non sono mai stati nemici, i palazzi ecco, erano insomma, i nostri e sono i nostri nemici. Bisogna sì, liberare Roma e quindi io garantisco che se eletto mi stabilirò una segreteria politica e ho già preso contatto con sì, la nostra emittente per creare una Radio Tevere che diffonda da Roma i proclami della libertà per avere finalmente Roma libera e quindi città chiusa tutta questa schifezza. Io cioè, a Roma cioè vuoi trasformare in Roma a Roma mi darò da fare perché sì, indipendentemente da quell'incapace del sindaco Marino si sì, faccia certo, pulizia con o senza l'accordo e il consenso di quell'incapace. Bisogna vabbè, pulire la città. Roma pulire, città chiusa libera da tutta la schifezza che gli hanno lasciato portare. Beh, questo l'abbiamo capito, però da tutte le parti del mondo, cioè, è una capito, vergogna. Va bene, che Roma cristiana, qui io voglio una Roma bianca e cristiana. Ah, cioè tu la vuoi vuoi cacciare tutti gli extracomunitari. Bianca è vagamente ricorda un po' gli anni 30 qui, quelli che tutti lavorano e si comportano bene, beh, certo, diciamo che vanno tollerati. Vanno tollerati. Allora, Mario Borghezio, come sapete, è un europarlamentare della Lega Nord. Non ero pronto per tutto questo, diciamo. È un europarlamentare della Nord che basta però... Basta votare Borghezio! Va bene, però, la Lega, scrivere va... Borghezio! Va bene, forza Mario, però adesso... Forza romani, liberatevi! Roma, città chiusa! Mario, non mi fare chiudere la trasmissione, però, oltre Roma... Io voglio capire una cosa, tu ti candidi, che ne so, anche a sindaco di Roma se dovessi essere eletto, che devi fare? Devi diventare podestà di Roma? Non vedrei male una prospettiva di questo genere. Io non vedo l'ora che dalle onde di Radio Tevere giungano dei messaggi chiari, perché sento un'atmosfera favorevole, non solo a Roma ma in tutto il Lazio. che voglia di libertà, di mandare fuori dalle palle la vecchia politica. Sì. Chiudere con la vecchia politica, senti, i monitori dei vecchi partiti che Mario, hanno ridotto Roma e Lazio in queste condizioni e tutto Mario, il paese, per dire la verità. Mario, scusami un attimo, ma secondo te, lo ha detto anche Iva Zanicchi nei giorni scorsi, gli extracomunitari portano malattie come Ebola, colera in Italia? Cioè sono propalatori di malattie gravissime secondo te? Beh, noi a dire la verità ed essere obiettivi, io ricordo la polemica che facemmo alla fine degli anni Ottanta con Farassino Torino sulla TBC, siamo gli antemarcia di questo largo. Noi l'abbiamo lanciato già per la TBC a Torino vent'anni fa, più di vent'anni fa. No, ma adesso, oggi la realtà ha superato le nostre più fosche previsioni con il pericolo di Ebola e comunque voglio dire le persone, le autorità sanitarie competenti. Sì. E che dicono la verità contrariamente alle informazioni che vengono date all'argomento. Cioè, che portano sti clandestini siete che portano. Imprenditori della paura, siete imprenditori politici della paura. Questa... Noi siamo operai della politica e operai, abbiamo l'umiltà di andare a parlare con la gente e spiegare quelle cose e rivelare quelle cose che i vari poteri costituiti non dicono. Io sono stato, credo, il primo politico ad andare già negli inizi degli anni 90 a verificare la situazione dei lebbrosari, scoprendo che la lebbra c'è ancora in Italia. E l'ha portata chi? L'ha portata la Lega, la lebbra in Italia. Chi l'ha portata la lebbra, scusa? Evidentemente persone che non per colpa loro arrivavano portatori di lebbra, per fortuna in molti casi. Ma dicevano la stessa cosa dei meridionali che andavano a Torino, Borghezio, su. Ci sono o non ci sono in Italia i lebbrosari? Questa è una realtà, una verità che viene nascosta. Senti, Olivero, hai sentito che dice Borghezio? L'onorevole Borghezio. No, devo dire, è stato al potere, è stato con Berlusconi, sono stati vent'anni là, e lui era uno dei nostri rappresentanti anche all'estero, no? Sì, attualmente è europarlamentare. No, certo. Cosa pensi? Avete capito, no? Cosa pensi di Io Borghezio? Trovo che, altro che Crozza. Cioè? Crozza è triste in confronto a Borghezio. Lui mi fa ridere molto di più. Un comico nato, ma è lui il vero comico. Sì, quando dico serio, Grillo un comico, chi è Borghezio il comico? Ma non ha un vago sapore, qualcuno dice razzista. Beh, no, se io qualcuno. No, ma figurati, no. Ma quelle cose, ma non lo prende neanche in considerazione. Ma per carità, ma figuriamoci. Ma dai, ma c'è la coda di paglia, insomma. Non devi neanche ascoltate bene cosa dice. Siamo tutti grandi, siamo intelligenti, capiamo come funzionano le cose e tirate le vostre somme. Roma città votate chiusa, Borghezio. Roma città chiusa, lui ha trasformato questo slogan, Roma città aperta, lo sappiamo, eccetera, grande film. In Roma città chiusa, come un casino, cioè casa chiusa, Roma chiusa. Traffico, anzi no, che c'è? Pubblicità. Invece di traffico cosa diresti? Pubblicità, non lo so, che ne so. Insomma, ne abbiamo i coglioni pieni, detto qui con molta delicatezza. Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. Allora, a grande richiesta, dopo questa settimana piuttosto complicata, a grande richiesta, un ascoltatore che è diventato un mito, oltre 1000 sono gli aderenti al Riccardo Fans Club di Roma. Riccardo da Roma Fans Club, in realtà. Beh, perché è diventato così famoso? Oltre 1000 in una settimana, ma così senza nemmeno dirlo. Io non è che posso dire aderite al club di Riccardo, perché è chiaramente un ascoltatore ferocemente, violentemente contro questo signore qui che è presente in studio, contro Parenzo, Riccardo da Roma. Però è diventato un simbolo. No, un mito col cazzo, però insomma per carità, gli piace. Via. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia? Loro che hanno diviso l'Italia in due. Ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano. E poi ci siamo tutti noi di serie B, anzi C, Z, no? A seconda della condizione. E loro però dicono che mo ci deve essere la meritocrazia. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Fancazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io in giro, io giro, ne faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche coi rasta, fasse i cannoni, coi libri, oppure oppure andiamo al centro sociale, ma vattene a fanculo, ma vai a lavorare, impara un mestiere, poi si lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati i lavori li danno tutti agli immigrati, e te credo, te se la fa cazzo. Mamma mia, secche di merda, avete distrutto questo paese dal 68 e poi con questa propaganda idiota. Dateci lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa, sì, mo vediamo tutto, non vedo, ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose, meritare. E mo quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure la babbiona, mo. Manco più nei programmi degli amici tuoi ti prendono, manco più nei programmi dei rossi, sei fallito, sei. Tuo amico, bravo. Sì, la babbiona era Annarella. Sì, C'è un altro pezzetto, cioè, su Annarella. Insulta le persone anziane, capito? C'è un altro pezzetto. Questo qui che ha mille persone che lo seguono. Di più saranno adesso. Sì, per carità. E insulta, beh, anche il fascismo però aveva grande seguito. Insulta una persona anziana chiamandola babbiona. Però vabbè, perché non è una babbiona, scusa. Che c'è, Pardo? Ecco, sono arrivato. Ciao, devo denunciare. Applauso a Pierluigi Pardo. Sì, grazie. So che è stata una puntata moderata, no? Moderata. Conduttore di Tiki Taka, nonché però co-conduttore, diciamo, sì, così, di tutti convocati. Dalle 14, questa so che è stata una puntata moderata, sì, no? Dalla quale comunque il dialogo ha prevalso. Sì. E no, devo denunciare che in effetti c'è del cashmere qui. Alta qualità, è un dato di famiglia. Mi dispiace. Vabbè, sono amico di Parenzo. E come l'hai detto, che come fossi dell'Andrangheta? Devo il cashmere. Aspetta, che colore è? Rosso. Fermo, che me lo ungi con quelle mani tutte unte. Le mani unte, non c'è nulla contro. Fermi tutti, ecco, voglio comunicare urbi e torbi che David Parenzo, lo dico a Riccardo da Roma, lo dico esplicitamente a Riccardo da Roma, indossa oggi un maglione di cashmere del valore, credo, di oltre 250 euro. Quanto? L'orologio è 250, un orologio è, non possiamo di dire. Di più? No, puoi dirlo. Orologio d'oro. Longines. Possiamo definirlo. Però me lo regalò mio nonno questo. Però il nonno, dai, non possiamo. Abbiamo sempre con noi, fermi però tutti. Però questo l'ho comprato io invece. Quanto è costato? Sai che non me lo ricordo. Oltre 500? Oltre 500. Beh, un buon cashmere, va. Oltre 500. No, ma l'avete visto? Un buon cashmere. Cioè, questa è la sinistra borghese romana. Romana, abita a Prati, in una casa di oltre 200 metri quadrati. Ma non è vero, dai. Un maglione di cashmere oltre 500 euro. No, ho detto vai a fare il culo. Ho detto semplicemente che un buon cashmere non puoi pagarlo meno di 250, questo è sicuro. Però fermi tutti, pago guadagno, pago fratello. Pardo, sei entrato. Sto scherzando. Dai, scherzando. Hai dato già il tuo altissimo contributo. Cashmere. Abbiamo sempre con noi il massimo della moderazione per questi minuti finali qui alla Zanzara, Mario Borghezio, sempre con noi collegato. Sì, perfetto. Caro Mario, era live. Caro Mario, voglio chiederti un'altra cosa. Ma dov'è? A Roma o a Torino adesso? Dove ti trovi, Mario? Sono a Milano, ma domani arrivo a Roma ed esattamente a Nettuno, domani mattina alle 11. Che fa? E Nettuno sarà là, lo sbarco di Anzio, che roba è? Ma che è la Lega che sbarca? Bar Benito, domani a Nettuno, ore 11. Bar Benito. Vabbè, ma questo però... Borghezio al Bar Benito. Benito non è un nome normale, scusate, non è, cioè magari è una... Allora Mario, voglio chiederti una cosa, uno dei tuoi rivali, anche se non nella stessa circoscrizione per il Parlamento Europeo, è la signora Chieng, quella della foto col Papa. Quella della foto leggermente taroccata, in realtà poi non era taroccata, ce n'era un'altra originale. Beh, insomma, ha dovuto... Ma. Cioè, in che senso? Ma, cosa ma, vuol dire? Non è originale, scusa. Ci sono due foto. Una nella quale è nera. Tant'è che se esci di sera non la distingue, perché nera la sera, nera lei, non si riesce a capire. Cioè, non ho capito, se tu la incontri per strada non riesci a distinguerla. E l'altra invece stile Michael Jackson è rischiarata, perché evidentemente aveva postato una foto con la pelle molto più chiara. Si ma vede è di che pessimo gusto apparire, questo, diciamo, dai. Così, o Obamiana, magari un po' più chiaroscura, cioè, ecco. Si vergogna di essere nera, come mai, ecco. Si vergogna di essere nera. Non chiederlo a lei, magari si vergogna, chi lo sa, ecco. Chi lo sa. Ma scusa, questa cosa della notte non ho capito bene, cioè se tu la incontri di notte non la distingui, com'è sta storia? Di notte tutta la realtà è tutta nera, se non c'è la luce è chiaro che distinguere no, guardi, qui ha fatto una citazione, è difficile, il sottotesto è di un razzismo e di una volgarità inaudita. Toscani, vuoi dire qualcosa? È come se lei avesse detto la notte in cui tutte le vacche sono nere, citando il grande filosofo, e quindi sta offendendo una persona. Non può dire che di notte è il più bieco razzismo, allora, veramente adesso questo è terribile. Allora questo. Toscani su brutto, su brutto, Borghezio. Penso che non ha cervello, povero uomo. Come non ha cervello? Non ha cervello, è un porco razzista schifoso che non si può prendere in considerazione. Un porco razzista schifoso che non va preso in considerazione. Borghezio è una diarrea bianca. Adesso. Volevo ringraziarvi per avermi invitato a questa puntata dalla quale possono nascere solo cose belle. Grazie. Una diarrea bianca. Io mi chiamo Borghezio invece. Diarrea ti chiamerò da adesso in poi. Diarrea bianca. Mi chiamo Borghezio, signor diarrea. Lo so, Borghezio. È il famoso fotografo, ormai ex fotografo, diciamo. Ma sì, ormai non fa più un cazzo, si vede qua. È Oliviero Toscani. Ah, mio micro. Quello della campagna a favore della società multiraziale. Sì, la conosciamo bene questa campagna. Bene, mi fa piacere che non era campagna, così scemo allora. Molto utile. No, sì. Molto lei, utile. Lei veramente ha deteriorato la sua intelligenza. Le campagne e le pubblicità della società multiraziale. Complimenti. Grazie. Scusa, mi fa veramente schifo. La pubblicità della società multiraziale. Lei mi fa veramente schifo. Sempre. Ai poveri del terzo mondo. Nel loro paese li sfruttano. Scusa, Mario. L'antirazzismo. Per chiosare questo tuo complimenti signor diarrea. No, diarrea è lei, non io. Scusa. Lei è la diarrea. Borghezio, complimenti al signor diarrea. Lei è il signor diarrea bianca. Scusami Mario. C'era penna bianca e lei invece diarrea bianca. Per concludere questa cosa, ma a te la società multiraziale ti fa orrore, ti fa schifo, dillo chiaramente, dillo esplicitamente. La società multiraziale serve agli speculatori come quelli, come il signor diarrea, che fanno pubblicità e soldi con la propaganda della società multiraziale. Bella gente. Grande, sei grande Borghezio. Tutti miliardari. Loro, gli extracomunitari, ce li hanno in casa con i guanti bianchi a fare i servi. Sì, allora tu sei un morto di fame, sei una diarrea morta di fame. No, vabbè, ma no, una diarrea, non con lui è una diarrea. Mario, ti saluto. Ciao. Ciao diarrea. Ciao. Non me molestemo schifo. Pierluigi Pardo. Sì, grazie, volevo appunto ringraziare. Fra poco va in onda Ascolta, si fa sera, programma di approfondimento religioso. E, no, mi fa molto piacere. Proprio... Che dire di più? Che cosa oggi? Io però voglio farti una domanda centrale che tutti qua sicuramente aspettano, attendono. Sì. Perché un conduttore televisivo sportivo... Viene qua? Perché mi ha invitato? Perché ti ho invitato, perché sei un mio amico, perché mi fa piacere che tu sia qui, eccetera. Perché non dichiarate mai per quale squadra fate il tifo? Perché non, in molti casi non esiste, perché c'è un intreccio di storie, rapporti, convenienze clamorose. Convenienze molto spicce, non pensate al malaffare. Per esempio, diciamo che insomma ci sono delle persone che ieri sera hanno perso la possibilità magari di fare una finale di Champions League e faranno una finale di Europa League, che non è esattamente la stessa cosa. E poi perché secondo me sul calcio comunque il livello Se tu dichiarassi per quale squadra fa il tifo, perché tutti lo sappiamo, qui ma non lo non c'è, e poi me lo spiegate, però insomma c'è confessa, fai una bella confessa. No, la domanda è diversa. Perché un giornalista politico può dire per chi vota perché, un giornalista sportivo? Perché la differenza fra emisfero destro e emisfero sinistro, no? Inteso fra razionalità e irrazionalità. Cioè, il calcio e l'emotività e la pancia. Tu conosci persone che hanno cambiato la squadra di calcio nella loro vita? Sì, qualcuno c'è, il famoso Emilio Fede, eccetera. Tanti politici che l'hanno fatto, almeno mentre il voto alla fine è un voto razionale che tu dai. Una volta voti per uno, una volta voti per un altro, magari hai una tua sensibilità che ti porta più a sinistra o più a destra, però io lo trovo. La grande rivoluzione dovrebbe essere tra chi fa calcio, chi fa giornalista sportivo, confessare per quale squadra si fa. guarda, alla fine di ogni telecronaca c'è sta quello che ti dice sei tifoso di questo, quello che ti dice sei tifoso di quell'altro, bisognerebbe metterli, appunto, fargli trovare un accordo, e se non ce l'hai, se la squadra tu, e poi la, e se poi tu la lo dicessi avresti paura? Ma, cioè, no, ma io non ho niente da dire perché ho sentito. No, se tu dicessi una volta sono tifoso di. No, ma non è questione di aver paura. È che secondo me, innanzitutto, ci sono varie gradazioni di tifo. Nel senso che ci no, sono. No, ma tifoso da bambino. Sì. Da bambino ti fa. Ma vabbè, un bambino può avere una simpatia, ma un conto è. Perché c'hai la simpatia? Non ce l'avevo simpatia. Da bambino mi occupavo di politica e mi occupavo. E sognavo di venire ospite in un programma chiamato La Zanzara. Allora, ecco, per chi voti? Dopo l'anno quarto. Perché hai votato all'ultima elezione? Per chi voti? Ho votato per Giannino e per Sel. È troppo facile. Te lo giuro, volevo per Giannino e per Sella. Tutti i comunisti a Mediaset, sono tutti comunisti a Mediaset. Ma è un voto da schizzoide, scusa, i comunisti. È un voto da schizzoide, ho fatto un voto da schizzoide. Perché? Qual era la strategia? La strategia era... Allora, Giannino lo seguivo con grandissimo interesse. Poi è successo quello che è successo. Anche per colpa nostra, vabbè, lasciamo per colpa vostra? No, vabbè. Varie vicende. Abbiamo altre colpe, ma insomma questo... Non lo so, poi non mi era piaciuto l'esito di quelle primarie del PD, nel senso che mi sembrava... Ma perché dobbiamo fare... All'Europa di Renzi c'è questa possibilità, ma non è detto. Ve lo farò sapere, ve lo farò sapere. Il gran paraculo. Ve lo farò sapere. L'ha detto, voterà no, Renzi, io credo. Io, vabbè, adesso se mi trascino questa, per me Renzi è un grande comunicatore. Punti, non lo so, Renzi. Non so se fidarmi, però è un grande comunicatore, cioè ha un talento, non lo si può, secondo me, accusare vabbè, di insomma, non avere sei velocità. Molto vicino al no, voto non sono per molto Renzi. Molto vicino. Non sono molto vicino. Sei un passo dal voto. No, no, questi sono, vedi, questa è la classica tecnica, voi che studiate giornalismo di Cruciani, no? Che ti fa il virgolettato. Però dire non escludo di votare Renzi. Ti sta antipatico Renzi? No, allora sei molto vicino a Renzi. Ti piace? Possiamo dire Renzi, perché no? Ah no, dai, no, è molto simile al mercato del tu calcio. Per chi, no? Tu per chi voti all'Europeo? Oliero? Non vota, secondo me. Sì, come volete no? Sapere? Sì. Si può dire? Sì, si può dire. No, non si potrebbe, siamo in par condicio. Ma... Allora, non voto per Grillo, perché? Non voto per i grillini, ma voto per il Movimento. Vabbè, voti 5 Stelle, dai, 5 su. Stelle. Ti fa... sì. Cioè, Grillo, sì. Che cos'è che non ti piace di no, Grillo? No, perché Grillo verrà spazzato via dai suoi grillini, i grillini cambieranno, ma il Movimento mi piace. Bah. Grillo è senza Grillo il Movimento no. Si squaglia dopo due non secondi. È vero, ma non è vero, no, le piazze sono piene anche con gli altri. Ma dai. Guardate. Voi che votate, ragazzi? Scusate, a questo punto par condicio. Io non lo so ancora, da sicuro. Rivoterai so. Grillo? Può darsi, sì, non è escluso. Oppure Parenzo? Oppure allora non voto Grillo. Oppure voto la diarrea. Parenzo forse voterà per diarrea, dai, credo per il Partito Democratico alla fine. Applauso! Bravo! Credo. Che avevo sorpresa! L'unico voto! Che sorpresa! L'unico! Per qualche secondo ho pensato di votare la lista Tsipras. Mamma mia, perché non lo fai? Che mi diverto Tsipras. Per tre mesi. Fallo che per tre mesi sì. Mi diverto. E in particolare Luca Casarini, guarda. Ti Stefano da Padova, appunto da Padova. Dai, Stefano, concludiamo in bellezza con qualcosa. No, voterò Partito Democratico. Però. Stefano. Pronto? Sì. Sì. Ciao, sono Stefano da Padova. Sì, niente, da sono un ciao, medico. Da Padova. Pronto? Sei un medico? Sì, sono medico. E ne abbiamo bisogno, sì, psichiatra in particolare. Sento sì che il livello mi sembra piuttosto alterato. Questo lo diciamo noi, adesso tu infatti i cazzi tuoi, il livello è alterato. Cioè. Il livello è alterato, veramente siamo tutti sobri qui. Comunque, sì, però ragione, guarda, sì, dire, arriva lo specialista, lo scienziato, si rende conto che qualcosa non va. Non ti sento allora, molto bene. Che volevi dire? Basso. Niente, se io volevo rivolgermi al fotografo lì da strapazzo, anni 80, ormai roba vecchia, scaduta. Ma povero, ma... Che non fa nulla di artistico da 30 anni, se non dire puttanate. Ho fatto una diagnosi però. Sì, dimmi. Questo signore qui ha tutti i mediatori chimici cerebrali fatti fuori dal Viagra. Perché l'età ci sta. Le cazzate che dice ci stanno. E avere questo colloquio così... Direi dal punto di vista intellettuale così raffinato, così sobrio, con l'altro pien de ombre, come si dice dalle nostre parti, e Parenzo sa cosa vuol dire del Borghezio, dà proprio un livello di allegria, di sobrietà che ormai caratterizza questa trasmissione. Io vi adoro. Va bene, d'accordo, Stefano, però dobbiamo concludere. Perché secondo lei quest'uomo qui prende... Tu hai mai preso Viagra? No. Mai? No. Non ha mai preso Viagra. E con questo chiudiamo. Ciao a tutti. Grazie. Viva il Kashmir! Viva il Kashmir di alta qualità però, Oltre 500 euro, Parenzo, vergognati. No, meno, un po' meno. Fra poco va in onda Ascolta si fa sera, programma di approfondimento religioso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lo dica a voce alta. chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, eh. Radio 24. La passione si sente.